prima edizione. Siamo gente abituata a combattere da sempre, con la natura, con la fabbrica, con la nebbia. Abbiamo un carattere sanguigno e terragno, per questo sapremo risorgere anche da questa catastrofe. Ho visto gente sola andare via, sai, le macerie sono di chi spera. 40.000 allo stadio Dall'Ara di Bologna ieri sera per il concerto per l'Emilia, quasi tutto il meglio della musica emiliano-romagnola, assente solo Vasco Rossi. Per il resto c'erano davvero tutti, c'era Zucchero che sentite ha dato l'input con Il suono della domenica, dedicato proprio alla sua terra. Al mio paese vedo fiorire il grano a braccia tese. Sole eternità. Copertina così questa mattina per prima edizione. Torneremo ancora a raccontarvelo più avanti. Ora il traffico e tra poco le prime pagine dei giornali. 6:16:30, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Allora, pronti con la carrellata, come sempre, delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Cominciamo però con la Gazzetta dello Sport questa mattina. Un cucchiaio pieno d'Italia, euroazzurro dopo la vittoria contro l'Inghilterra. Elogi dai grandi d'Europa per il regista, c'è profumo di pallone d'oro per Pirlo, scrive la Gazzetta, e per la nazionale di Prandelli che ora fa paura alla Germania. Ma c'è anche chi ci scherza su, sui molti, li abbiamo fatti anche noi ieri mattina, sono abbastanza naturali molti paragoni tra gli europei di calcio e la settimana cruciale dell'euro e la sfida tra i leader europei per il futuro dell'euro. Duello Italia-Germania, il festival della metafora, scrive questa mattina il quotidiano La Repubblica. L'abuso di retorica tra gol alla crisi e cucchiaia anti-spread. E allora Francesco Merlo scrive così questa mattina: propongo una lunga squalifica, non per fuorigioco ma per fuori luogo, del calcio parlato e del calcio scritto, di questa epica da bar e da redazione, di Bersani che dice mi aspetto da Monti un bel gol alla Pirlo, della stiracchiatissima trovata da Rotariani saputi che Goethe ha battuto Omero 4-2. Ma come non farla retorica davvero in queste ore. Allora, questa è la Gazzetta dello Sport, così le critiche al linguaggio di questi giorni che arrivano dalla Repubblica. Passando invece ai temi economici davvero seri e davvero cruciali in queste ore, allora la carrellata delle prime pagine. Il Sole 24 Ore: Merkel gela i listini sugli euro bond, Merkel affonda le borse, scrive il Messaggero. Merkel no agli euro bond, le borse vanno a picco, la Stampa. La Repubblica: euro bond, la Merkel gela le borse, un titolo questo che è piaciuto a molti. Del gelata sulle borse della Merkel, il secolo XIX, la Merkel affonda le borse. Il quotidiano nazionale: Merkel anche qui affonda le borse, i Nein gonfiano la crisi, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera, titolo d'apertura di quest'oggi: Italia sotto pressione sui mercati, Monti da Napolitano oggi vedrà i leader della maggioranza. Insomma, è questo sicuramente il tema, e come non poteva esserlo, che domina i quotidiani di questa mattina. Già vi anticipavo con GR24 che peraltro non sembra iniziare molto meglio la giornata sui mercati asiatici. L'indice Nikkei, allora, aggiornamento proprio in questo istante, perde lo 0,94%. Torniamo però su Il Sole 24 Ore. Dicevamo, il titolo: Merkel gela i listini sugli eurobond. La cancelliera dice sono controproducenti, Madrid chiede aiuto per le banche, a Cipro servono 4 miliardi ed ecco che si apre un altro fronte e si dimette già il ministro greco delle finanze. Questo per quanto riguarda il quadro internazionale, ma il taglio centrale invece del Sole 24 Ore ci ricorda che ci sono anche le nostre questioni interne. La spending review, che doveva essere uno dei fiori all'occhiello delle prossime mosse del governo, sembra già perdere i pezzi perché salta il tetto alle pensioni d'oro, dai partiti stop al taglio delle agenzie, scrive ancora il Sole 24 Ore. per questo fronte dovrebbe arrivare una risoluzione bipartisan che dice no agli accorpamenti con decreto dismissioni al palo, e dunque già due pezzi che si perdono. Per quanto riguarda le pensioni d'oro, il no è arrivato al tetto dei 6.000 euro che dovevano esserci per le pensioni di altri funzionari. C'è la nota positiva che arriva invece dalla prima pagina del Sole 24 Ore di quest'oggi, ed è l'Italia che batte la crisi, così scrive il Sole 24 Ore. Il boom di ordinativi che arriva ad esempio invece in Valdarno, dove i pellettieri cercano 3.000 addetti. È questa l'Italia che batte la crisi, scrive il Sole 24 Ore. Dicevamo, però la questione è sicuramente al centro dell'attenzione. Allora il quotidiano La Stampa: Obama chiama Monti, apprezzo il vostro impegno per salvare l'euro, ma c'è anche un retroscena pubblicato oggi dalla Stampa. L'unione bancaria pronta a decollare dal prossimo anno, se ci sarà il via libera dei leader al vertice di venerdì, la Commissione europea presenterà le regole a ottobre. L'unione bancaria potrebbe essere pronta, un tassello sembra emergere dai molti no di queste ore. Anche la Repubblica, l'attenzione dicevamo puntata sugli eurobond, con la Merkel che gira le borse, i venti di crisi, Monti a consulto da Napolitano, perché c'è anche questo fronte con i no della cancelliera a pochi giorni dal Consiglio europeo, vale a dire anche il fronte italiano tra Berlino e Berlusconi. È il commento oggi di Massimo Giannino sulla Repubblica. Sono i due nodi che Monti dovrà affrontare contemporaneamente: da una parte le trattative con l'Europa, dall'altra anche quelle interne con, scrive Massimo Giannini sulla Repubblica, i partiti italiani, a partire dal PDL, che non resistono al canto delle sirene di una vecchia Repubblica e che ripropongono il tema inquietante delle elezioni anticipate proprio in questo momento, che imporrebbe invece il massimo di coesione nazionale. La grosse coalition de noatri, così la definisce Massimo Giannini, così puntando alla tedesca ma in versione italiana, minaccia di rompersi e si lascia tentare dal voto subito, ed è stretto in questa tenaglia. Al vertice della vigilia c'è Mario Monti, così sulla Repubblica. Il Corriere della Sera, anche qui il taglio è grosso modo lo stesso: Monti da Napolitano, oggi vedrà i partiti della maggioranza, una roadmap però è ancora possibile. Così il commento sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che a centro pagina ci porta anche ad un'altra questione: la trattativa sul piano dell'Unione Europea. Bruxelles potrà riscrivere i bilanci dei singoli stati, così la bozza di Barroso, Draghi, Van Rompuy e Juncker. L'area dell'euro vive i giorni della trattativa sul piano europeo, scrive il Corriere della Sera. Il rapporto sulla situazione sarà presentato ai leader, e tra le proposte c'è proprio qui il fatto che Bruxelles possa riscriverli, se non lo convince, i bilanci dei singoli stati, con la pena di multe salate se non si adeguasse. E dunque torna ancora il tema di una sudditanza sul fronte dei bilanci rispetto a Bruxelles per gli stati europei. Questo quello che ci sarebbe nella bozza che andranno a discutere a Bruxelles giovedì e venerdì i leader europei, secondo il Corriere della Sera. Altra questione politica sulle prime pagine dei quotidiani, invece voltiamo pagina, tutta Lombarda, la riporta in grande evidenza La Repubblica, c'è cioè un po' su tutti i quotidiani, ed è la resa dei conti anche in Lombardia. La Lega scarica Formigoni alle urne nel 2013, non si può continuare così. La Lega Nord, che ieri ha di fatto scaricato in qualche modo il super governatore della Lombardia Roberto Formigoni, dopo le voci di sue iscrizioni nel registro degli indagati per i conti della sanità. Queste le notizie principali, ci sono naturalmente altre due notizie che più o meno trovate un po' su tutti i quotidiani. Restando sulla Repubblica, la morte, l'abbiamo sentita anche poco fa in GR24, del carabiniere italiano in Afghanistan, con i talebani che attaccano ancora l'attentato in Afghanistan, la guerra impossibile, così scrive la Repubblica. E poi l'altra notizia la leggiamo in questo caso dal quotidiano La Stampa: in 40.000 al concerto per l'Emilia, tutto esaurito ieri sera allo stadio Dall'Ara di Bologna, per raccogliere fondi per i terremotati. Noi ve lo racconteremo, già qualcosa vi abbiamo anticipato poco fa, ancora nel corso di prima edizione. Allora, resta qualche istante per qualche altra notizia, qualche altra curiosità. Allora, restiamo sulla stampa, visto che siamo già sulla stampa di Torino. Lo sapete quanto pesa il mondo, tutti gli uomini del mondo, calcolato dagli studiosi di Londra? Tutti insieme pesiamo 287 milioni di tonnellate, 19 per colpa degli obesi. Quanto pesa il mondo dei ciccioni? Così, senza mezzi termini, titola questa mattina la stampa di Torino. Qualche altra curiosità? Qualche altra notizia: non calunniate più i sedicenni, così scrive il Corriere della Sera. Non è vero che i nostri liceali leggono meno dei genitori, sono solo miti generazionali. Leggiamo che i sedicenni o i diciottenni che frequentano i licei italiani non hanno letto libri e che non sanno scrivere in italiano. Si dà per inteso che le generazioni anteriori conoscessero molti libri e scrivessero decorosamente. È una sciocchezza, come tutte quelle che paragonano intelligenza e cultura delle diverse generazioni, così scrive questa mattina il Corriere della Sera. Restando allora al mondo dei ragazzi, al mondo della cultura, dell'università in questo caso, taglio basso della Repubblica, la notizia è che è stato accolto il ricorso sui test d'accesso, serve una graduatoria unica, parliamo di università, il numero chiuso è una lotteria sugli atenei, decide ora la Consulta, discriminati da un meccanismo che non seleziona affatto gli studenti migliori, anzi appare come una lotteria, così sarà la Corte Costituzionale a decidere sul destino del numero chiuso dell'università. Un pronunciamento che potrebbe portare nel caos le selezioni di quest'anno, che sono già previste per il prossimo 5 settembre. Così scrive questa mattina il quotidiano La Repubblica, una vicenda questa che sicuramente è da tenere in qualche modo sott'occhio. Le 6:26 minuti 47 secondi, queste le prime pagine dei quotidiani, come sempre Alessandro Milan. Prima di chiudere però questo spazio, vogliamo raccontarvi anche noi anche un'altra storia questa mattina. Ed è una storia di cui vi abbiamo riferito ieri già. Il Tribunale Civile di Trieste, vale a dire con un'altra sentenza, anche in questo caso senza precedenti, ha condannato un istituto pediatrico di Trieste. L'ospedale pagherà un vitalizio, una sorta di stipendio mensile a vita, ad un bambino che dopo un errore medico durante un intervento è rimasto in coma. Anche in questo caso una sentenza che avrà ripercussione su altri casi, sarà così per altri bambini? Allora, Giovanni Monchiero, presidente della Federazione degli Ospedali Pubblici, ha commentato la sentenza al microfono di Lucio Bondi. Sulla sentenza in sé non ho niente da dire, anzi devo dire che l'idea di un vitalizio può anche essere una soluzione opportuna, insomma. Diciamo che il clamore che ha suscitato questa vicenda ci consente di evidenziare due problemi: la pressione eccessiva che i medici sentono su di sé da parte dell'opinione pubblica, ma spesso della stessa magistratura, per tutti i casi di incidente medico. Il secondo è che bisogna trovare un modo per non incoraggiare le richieste risarcitorie, anche pretestuose, prestabilendo dei criteri per la definizione di tutti i risarcimenti. Questo senza venir meno all'esigenza primaria, che è quella di riconoscere il giusto risarcimento a chi eventualmente subisca un danno, per carità, ci mancherebbe. E questo allora il parere dei medici. Grazie al nostro Lucio Bondi. Una piccola pausa, poi torniamo alle notizie di oggi. 6:37 minuti, buona giornata ancora da Anna Migliorati. Siamo alla seconda parte di prima edizione. E questa mattina, già ve lo dicevo, questa sarà tra l'altro l'ultima settimana di prima edizione, almeno per questa stagione. Allora torniamo anche un po' su quelli che sono stati i temi forti di questi mesi, perché ci sono state alla fine delle svolte. Allora io saluto Ugo Tramballi, che di ritorno dal Cairo. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, ieri l'abbiamo raccontato anche prima edizione, il nuovo presidente egiziano, il primo eletto democraticamente, presidente dei Fratelli Musulmani. Nei mesi scorsi, tra l'altro, l'avevamo più volte detto che molto probabilmente l'esito alla fine sarebbe stato questo: hanno vinto abbondantemente nelle urne, è stato sciolto il Parlamento, è stato concesso, tra virgolette, il presidente ai Fratelli Musulmani. È in qualche modo, secondo te, un epilogo che era prevedibile, appunto, della primavera araba, o è l'inizio di altro? Siamo ancora a una tappa intermedia? Secondo te qual è lo scenario più probabile? Beh, non solo in Egitto, in tutti i paesi arabi dove c'è stata una primavera, una partenza di primavera, escono vincitori o si fanno notare o crescono, sono la tendenza più forte i Fratelli Musulmani, e questa è una realtà della quale dobbiamo, come dire, della quale dobbiamo renderci conto, che dobbiamo accettare, con la quale dobbiamo trattare. Cioè, la Fratellanza Islamica è sempre stata in un certo senso demonizzata, e a volte ha ragione, a volte assolutamente no. Non sappiamo se queste tendenze sono destinate a diventare un fondamentalismo islamico fino alle repubbliche islamiche iraniana, o se invece, come sembra essere quella tunisina, quella egiziana in buona parte, invece una tendenza verso una forma, se posso dire, di nuova democrazia cristiana musulmana, insomma, cioè partiti moderati, partiti religiosi moderati destinati a governare il paese. Nel caso per esempio egiziano, ora i Fratelli Musulmani sono al potere, sono molto felici, ma poi sono relativamente al potere, nel senso che poi ci sono i militari che ancora in realtà controllano molto più del potere di quanto non lo facciano i Fratelli Musulmani. Si dice che i militari hanno il potere e i Fratelli Musulmani hanno la piazza. Può essere, secondo te, un'analisi corretta? No, nel senso che non è detto che i Fratelli Musulmani abbiano la piazza. Domenica l'avevano e hanno festeggiato, ma non dimentichiamo che in Egitto hanno vinto col meno del 52%, quindi il paese è diviso in due, c'è una fetta del paese che è legata ancora al vecchio regime, una fetta abbondante del paese che è legata ai nuovi partiti dell'opposizione laica di sinistra, quindi i Fratelli Musulmani sanno perfettamente di non avere in mano la piazza, ma la possono conquistare adesso, appunto, come dicevo, governando, risolvendo i gravi problemi economici del paese. Se non lo faranno, perderanno la piazza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato un nuovo pacchetto di sanzioni ieri contro la Siria. Oggi della vicenda siriana discuterà la NATO. Questo ti dico perché l'Egitto è comunque un paese importante nello scacchiere. Sarà un altro Egitto, secondo te, con cui fare i conti anche, ad esempio, appunto, nella vicenda siriana? No, apparentemente no. A parte il fatto che gli egiziani adesso hanno ben altri problemi che occuparsi, piuttosto che non la geopolitica o il ruolo di potenza regionale che una volta l'Egitto aveva, il trattato di pace con Israele, è stato il primo paese arabo a fare una pace con Israele, l'Egitto. No, non credo, credo che l'Egitto, non solo perché adesso ha ben altre priorità, ma anche poi quando si dedicherà a questo, certamente avrà nei confronti di Israele un atteggiamento, diciamo, più dinamico di quanto non l'avesse Mubarak, che era assolutamente appiattito sull'asse Stati Uniti-Israele. Certamente sarà molto più critico, certamente Israele non si potrà permettere di bombardare Gaza senza che l'Egitto dica qualche cosa, ma sostanzialmente le alleanze filo-occidentali, la pace, gli accordi di Camp David non credo che saranno mai messi in discussione. È un Cairo diverso quello che hai trovato in questi giorni? È la stessa città della... da un anno e mezzo a questa parte, da quando appunto c'è stata la prima vera rivolta di Piazza Tahrir. Certamente domenica era una giornata festosa, ma non era esattamente la stessa piazza, appunto, di quando, gioiosa e felice, festante, di quando per esempio l'11 febbraio dell'anno scorso Mubarak diede le dimissioni e fu, come dire, la svolta, la anche perché quella era una piazza sicuramente più laica di quella di domenica, ad esempio. È una piazza composita, quella appunto di domenica era una piazza più islamica, mobilitata per la festa, una piazza che non era mai scesa in strada, perché appunto i miei Fratelli Musulmani sono sempre stati un partito in un certo senso, perché poi moderato. Da qui si vede Piazza Tahrir piena e la si identifica come Piazza Tahrir piena, appunto. In realtà no, ci sono state diverse piazze nel corso di questi mesi. Ma ce ne sono state sostanzialmente due: la piazza appunto della rivolta dei giovani, la piazza incredibile, inaspettata, e poi la piazza presidiata dai fratelli musulmani in questi giorni, che erano presidiata fino a che, temendo appunto che i militari stessero, cosa che probabilmente stavano facendo, stessero modificando il risultato effettivo del voto presidenziale della settimana scorsa. Allora, è stata l'occasione davvero un po' per ritirare le fila anche su questo, perché altro ci attendiamo nei prossimi mesi, ma intanto abbiamo un po' fatto il punto approfittando appunto di Ugo Tramballi che al Cairo c'è stato domenica, e per avere un po' il polso di quella che è intanto in queste ore ancora la situazione. Grazie ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Torniamo ad altre questioni di queste ore, questioni sempre più urgenti. Siamo a martedì, giovedì e venerdì ci sarà il vertice europeo, quindi naturalmente sono molte le prese di posizione in queste ore, anche perché ognuno dei leader europei sta un po' mettendo il punto fermi su quella che sarà la posizione con cui arriverà a Bruxelles al di là delle trattative di queste ore. Ci sono due questioni, allora facciamo ancora il punto anche su questo questa mattina. Ci sono due questioni che sembrano essere un po' al centro di questa discussione nelle ultime ore, al di là delle prese di posizione ieri di Angela Merkel, che ancora pesano anche sui mercati asiatici, l'abbiamo già detto. E da una parte la bozza che a Bruxelles dovrebbe arrivare, secondo cui i paesi della euro che infrangeranno le regole per il debito potrebbero veder riscritte le loro manovre nazionali, dall'altra c'è l'appoggio ormai aperto del presidente americano Barack Obama al premier italiano Mario Monti. Obama ha telefonato a Monti, ha parlato anche con il leader greco. Allora vogliamo fare anche il punto sugli ultimi appelli, sulle ultime posizioni. Saluto Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te Anna, gli ascoltatori l'hai praticamente già detto tu, è stata una nottata di telefonate tra le due sponde dell'oceano. Infatti il presidente americano Obama ha chiamato il premier greco e altri leader europei, fra i quali Mario Monti, per informarsi sulla preparazione di questo importante vertice di fine settimana a Bruxelles. Nella telefonata con Monti, Obama ha lodato l'impegno del governo italiano per facilitare il consenso in Europa sulle politiche per la crescita. Il presidente americano si è congratulato anche telefonicamente con il premier greco Samaras e gli ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno a lavorare per l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la BCE per l'attuazione del piano di riforme greco. Intanto ieri Angela Merkel, come dicevamo, ha gelato i mercati, ha detto basta con eurobond ed espedienti simili, torniamo a parlare dei controlli e delle riforme. La reazione a questo, ma soprattutto alle preoccupazioni nei confronti della crisi da parte delle borse, è stata pesante. Le borse hanno chiuso con decisi cali, ad Atene la borsa ha chiuso a meno 6,84%, Milano ha fermato le contrattazioni con un calo del 4,02%, male anche le altre borse, in particolare Madrid meno 3,67%. Madrid tra l'altro ha fatto richiesta ufficiale di aiuti e anche Cipro ha lanciato l'SOS. Intanto nella notte Moody's ha tagliato il rating di 28 banche spagnole, il taglio va da 1 a 4 scalini a seconda dell'istituto, si tratta della seconda volta in meno di 6 mesi che Moody's taglia il rating delle banche spagnole. Lo scorso 17 maggio erano stati colpiti 16 istituti, tra le banche interessate ora anche il Banco Santander. Ovviamente siamo tutti in attesa dell'apertura questa mattina dei mercati, intanto la borsa di Tokyo è negativa a meno 0,34%, sono negative un po' tutte le borse in Asia. Vedremo cosa accadrà alle 9 quando apriranno gli altri mercati. Grazie allora Valentina Furlanetto. Alle 9 l'appuntamento, dicevamo, con l'apertura dei mercati. Per noi c'è un altro appuntamento, quello con la viabilità, per chi alle 6:46 minuti è già in auto, poi torneremo andando a Bologna. Siamo gente abituata a combattere da sempre, con la natura, con la fabbrica, con la nebbia. Abbiamo un carattere sanguigno e terragno, per questo sapremo risorgere anche da questa catastrofe. Visto gente sola andare via, sai, le macerie, i sogni di chi spera. 40.000 allo stadio dell'Ara di Bologna ieri sera per il concerto per l'Emilia. Sono stati raccolti 2 milioni e mezzo di euro per i terremotati emiliani. Quasi tutto il meglio della musica emiliano-romagnola. Sente solo Vasco Rossi, per il resto c'erano tutti. C'era Zucchero, che sentite, che ha dato l'input con il suono della domenica dedicata proprio alla sua terra. Il mio paese vedo fiorire il grano. E tra gli appelli quello di Luciano Ligabue. La nostra dignità, la dignità degli emiliani particolarmente colpiti, la laboriosità degli emiliani, tutto questo non vorremmo che diventasse un alibi. Noi siamo qui per farsi dire, per sentirci dire dallo Stato e dalle istituzioni che il meglio deve ancora venire. È un duetto, forse quello più atteso, quello che ha visto il ritorno di Caterina Caselli e di Guccini. E cade la pioggia e cambio di cosa. Vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita, la morte e la vita rimangono uguali, la morte e la vita rimangono uguali. Trionfa un uomo. Ci voglio 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore abbastanza un minuto, per il dolore abbastanza un minuto. Lanciato ieri sera anche il suo messaggio. Manco da 42 anni, insomma sono fragile, una debuttante mi sento, però con una gran voglia di essere qui, perché volevo essere qui, volevo essere a Bologna stasera per cantare per i nostri fratelli. Sono stati raccolti 2 milioni e mezzo di euro per i terremotati emiliani e saranno consegnati nei prossimi giorni e destinati a diversi progetti. Noi naturalmente, al di là della musica, continueremo a seguire quel che succede in Emilia. Allora, buona giornata da Anna Migliorati, Diego Rovelli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Prima edizione questa mattina la chiudiamo ancora con quella che è stata la promessa per i terremotati e per prima edizione una sorta di appello continuo di memorandum, e noi ci risentiamo tra poco con GR24. L'Emilia Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare.